Come abbiamo anticipato prima, adesso facciamo qualche chiacchiera anche con l'altra parte dell'Orchestra Senza Spine del Mercato Sonato, parliamo con Tommaso Ussardi e adesso continuiamo a farci raccontare un po' com'è la situazione. Benvenuto Tommaso. Grazie, grazie dell'invito. Grazie a te per essere qua con noi su Radio Città Fujiko. Allora, con Matteo abbiamo chiacchierato un po' di più dell'organizzazione proprio della vita dell'orchestra e invece con te volevo un po' chiacchierare, insomma volevo farti qualche domanda più sul mercato sonato che negli ultimi anni si è consolidata come una realtà importantissima nel settore culturale locale, non solo, insomma avete portato tantissime attività non solo legate alla musica classica ma anche a altri tipi di musica e anche altre modalità di fruizione musicale a Bologna. Ecco, adesso avete subito un bruschissimo stop, insomma, quindi la prima domanda è: come va riguardo a questa situazione? Come va? Si cerca di guardare oltre, si cerca di rimanere comunque sereni e propositivi per non fermarsi, perché quello che secondo me è l'aspetto più importante proprio delle nostre figure è essere consapevoli di essere operatori culturali e di essere anche un presidio culturale, quindi uno spazio che indipendentemente dalla possibilità di aprire o di dover tenere chiuse forzatamente le sue porte, comunque mantiene quella funzione lì. E questo ci tengo a specificarlo perché è stata anche la motivazione che ci ha fatto investire in questi primi mesi, penso a luglio e ad agosto, quando ci siamo messi a lavorare per programmare l'apertura di fine settembre. Cioè, la motivazione è stata proprio quella, nell'incognita più assoluta, sapendo che potevamo chiudere da un giorno all'altro, abbiamo comunque voluto investire sia in energie, in risorse umane che anche in risorse economiche, per poter mettere in piedi un cartellone importantissimo. Tra ottobre e novembre avevamo circa 20-25 eventi ogni mese, che spaziavano appunto all'interno di generi musicali diversi, perché come dicevi tu, Mercato Sonato è la casa dell'Orchestra Senza Spine, ma proprio in quanto casa della musica vuole che la musica classica sia in dialogo con tutti gli altri generi, senza differenze, quindi proprio l'orizzontalità prima di tutto, e questo ci ha permesso di pensare un programma, un palinsesto estremamente vario. Siamo dispiaciuti ovviamente di aver interrotto così, perché ci aspettavano veramente delle serate molto, molto belle e interessanti, anche affascinanti per il tipo di pubblico che si va a intercettare, e purtroppo ovviamente abbiamo dovuto sospendere tutto e siamo come dire un po' dispiaciuti per il tanto lavoro messo e il rischio di buttarlo un po' nel cestino, e questo perché ovviamente non si sa se si riaprirà. Perché al momento noi le date comunque le abbiamo tenute in piedi quelle di fine novembre, cioè non le abbiamo ancora cancellate, perché appunto ancora non è uscito nessun nuovo decreto, e quindi aspettiamo di nuove informazioni a riguardo. Però sì, noi continuiamo ad essere così motivati al continuare a pensare che tutto torni come prima, e questa è un po' l'unica forma di speranza che ci allieta. Per quanto riguarda comunque la risposta che c'era stata da parte del pubblico, era stata molto forte. Noi siamo riusciti a seguire un po' l'inaugurazione che avevate fatto e anche i concerti che ci sono stati dopo. Insomma, questa è proprio una dimostrazione del fatto che c'era bisogno e c'è bisogno di cultura. Ecco, secondo te il fatto che comunque adesso sia necessario trovare delle alternative online in un qualche modo, comunque delle alternative non in presenza, riuscirà in un qualche modo a rispondere a questa esigenza e questo bisogno che abbiamo dimostrato, o non è una via alternativa valida? Ecco. Domandone. Allora, secondo me bisogno di cultura c'è sempre, e questo insomma è un dato abbastanza scontato, nel senso che quando siamo chiusi in casa comunque abbiamo bisogno di elementi culturali, alti o bassi che siano, però alla fine ci troviamo tutti o a guardare un film o a leggere un libro o ad ascoltare della musica. Insomma, abbiamo sempre bisogno di fonti che ci nutrano, insomma, quella parte, come dire, quell'animo culturale. Poi il grande problema è da dove arriva questa cultura. Allora, a me il mondo digitale spaventa, perché la questione territoriale viene a mancare completamente, quindi alla fine poi ci si trova ad alimentare territori culturali molto più complessi, come, non so, adesso per fare degli esempi, ovviamente ci troviamo a guardare video su YouTube, film su Netflix, eccetera eccetera. La forza di avere un presidio fisico all'interno di un territorio è anche il senso di appartenenza verso quel territorio lì. Quindi nel momento in cui si propongono concerti, attività, eventi culturali in un luogo fisico, oltre la possibilità di andare a vivere fisicamente questo luogo fisico, c'è anche la sensibilità e la sensazione proprio di alimentare il territorio. Nel digitale questo è molto più complicato. Chiaro che si potrebbe fare una forma anche di educazione al consumo digitale dell'arte e della cultura, quindi essere consapevoli che anche un click, anche un 10 secondi di schermo che gira sono delle economie, e quindi iniziare a sensibilizzare gli utenti del proprio territorio ad alimentare un'economia per il territorio stesso. E quindi non sono del tutto così scoraggiato dall'idea di vivere anche dei prodotti culturali a livello digitale. È chiaro che è molto molto più difficile. Come dicevi, noi abbiamo avuto una bellissima risposta da parte del pubblico, e ovviamente c'erano un sacco di preoccupazioni sia da parte nostra di essere in grado di rispettare tutte quelle che erano delle normative che spesso purtroppo denotano una necessità di interpretazione che non sai mai se stai facendo giusto o sbagliato, insomma. Però devo dire che il pubblico ha capito anche questo nostro bisogno di far rispettare le regole in maniera quasi maniacale, proprio per dare a tutti la possibilità di vivere lo spazio, perché alla fine poi c'è anche la sensibilità della persona di capire chi ha vicino e come rispettare chi gli sta accanto. E devo dire che il pubblico ha capito e non c'è stato nessun tipo di problema, anzi, più passavano le giornate e più lo spazio si riempiva, perché anche il passaparola aveva raccontato il mercato suonato come un luogo sicuro dove poter appunto vivere l'arte, la cultura e lo spettacolo dal vivo in sicurezza, ma allo stesso tempo con spensieratezza, perché va bene la sicurezza, ma allo stesso tempo bisogna vivere l'arte e la cultura come un momento anche di evasione, di libertà, e questo secondo me era molto a rischio con tutte le norme che giustamente andavano rispettate. E quindi per noi è stata una grandissima sorpresa, e ripeto, l'amarezza più grande è aver iniziato e poi aver chiuso e non aver potuto portare avanti questo cerchio che si stava alimentando giorno dopo giorno. Proprio riguardo a questo, allora ti faccio l'ultima domanda che ho fatto anche a Matteo, insomma, per avere entrambe le risposte adesso, perché è una domanda alla quale ci teniamo molto, e soprattutto per capire cosa ne pensate voi che lavorate appunto in questo settore, e che per voi è proprio anche un settore di lavoro, non solamente un settore di fruizione come può essere per altri. Ecco, come mai secondo te è stato così semplice penalizzare per primo il settore culturale, in particolare della musica dal vivo, dei teatri, del cinema, insomma delle attività culturali dal vivo, così rapidamente, diciamo, come prima cosa? Allora, secondo me, uno, perché in Italia forse, adesso non voglio fare questioni di confini, però spesso manca, anche per colpa della nostra burocrazia, manca l'elasticità, la flessibilità. Allora, per trovare una regola che andasse bene per tutti, si è pensato a luoghi di cultura, per evitare di dover definire questioni legate al teatro, legate al cinema, legate anche a locali che possono poi diventare bar, che possono diventare discoteche, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi per una mancanza di elasticità, forse. Seconda cosa, perché è innegabile, c'è una forma di insensibilità notevole verso il mondo della cultura, verso il mondo dell'arte e verso la consapevolezza che dietro a questi mondi ci siano tanti e tanti lavoratori. Allora forse alle persone non importa così tanto, o meglio, forse si pensa a livello così politico, che alle persone non interessi così tanto il mondo del teatro, il mondo della cultura, dello spettacolo dal vivo. E io credo che questo poi sia un errore, perché le persone, nel momento in cui vengono messe di fronte a questa mancanza, di questa assenza, iniziano a sentirne una mancanza e iniziano a capire anche quanto fosse bello andare in un teatro, quanto fosse bello vedere uno spettacolo dal vivo e viverlo veramente. E io spero che queste decisioni risveglino un po' quel bisogno di spettacolo dal vivo che risiede in ognuno di noi. E sono convinto di questo, perché forse troppo spesso ce ne si dimentica, e forse tante persone non vivono lo spettacolo dal vivo veramente, cioè nel senso non ci vanno nei teatri, non vanno ai musei, non vanno al cinema, non vivono. Però io sono convinto che nel momento in cui si vive uno spettacolo dal vivo c'è la possibilità di memorizzarlo in maniera fisica, cioè te lo ricordi per sempre, anche un brutto spettacolo te lo ricordi, mentre la fruizione digitale, così, che continua a riempirci la bocca, in realtà non la si digerisce e non la si assorbe veramente. Allora è lì che bisognerebbe puntare, soprattutto per quanto riguarda gli operatori culturali, dovrebbero convincere, raccontare alle persone quanto si stanno perdendo. Quindi non dire i teatri devono rimanere aperti, punto. Perché i teatri devono rimanere aperti? Qual è la loro funzione? E cosa servono i teatri in una città? Ecco, io sposterei più il discorso su questo. Poi le scelte politiche purtroppo vengono prese per tantissime ragioni, quindi non voglio stare a dire il perché sono state prese certe decisioni, ma vorrei che le reazioni a queste decisioni fossero anche diverse. Cioè, non è giusto focalizzarsi sugli operatori culturali, ma io vorrei focalizzarmi di più su chi deve fruire di questi prodotti. E quindi vorrei che si parlasse più di pubblico, vorrei che si facessero interviste, ricerche su anche la difficoltà, e questo è un punto importante che vorrei sottolineare, la difficoltà che noi operatori culturali abbiamo avuto comunque nel riempire le sale. Cioè, avere 150 posti a disposizione, quando l'anno scorso se ne avevano 500, chiunque in questa ripartenza ha visto che riempire 150 posti era molto più difficile che riempirne 500 l'anno scorso, e questo è un motivo che va risolto, e andrebbero fatte appunto campagne di sensibilizzazione all'importanza dello spettacolo dal vivo. Tra l'altro siamo tutti consapevoli delle campagne e delle lotte che i lavoratori dello spettacolo stanno portando avanti e devono portare avanti, però qui il problema è questi sono problemi che c'erano prima, cioè ci sono sempre stati e non sono stati risolti, e adesso vogliamo che vengano risolti ed è giusto così. Ma adesso ci troviamo davanti a dei problemi molto più grandi, che sono la necessità, il bisogno di riaccendere un'attenzione verso verso il pubblico, lo spettatore, che deve sentire questo bisogno di vivere l'arte e la cultura, e perché così si genera lavoro, altrimenti non c'è gli operatori culturali, sì, ma se non c'è lo spettatore dall'altra parte il lavoro non esiste. Quindi mi sarebbe piaciuto sentire una protesta da parte del pubblico, degli spettatori, non degli operatori, cioè giusto che gli operatori ovviamente protestino, però secondo me bisogna spostare l'attenzione da un'altra parte, ecco. E spero insomma che si riesca a fare, che non è per nulla scontato. Giusto, va bene, ti ringrazio tantissimo allora per questa chiacchierata e per il racconto, insomma, di che cosa sta succedendo e come state vivendo voi questa situazione. E speriamo tantissimo di sentirvi a breve dal vivo, insomma. Sì, lo speriamo anche noi. Grazie mille, buona giornata.